Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa dei periodici settimanali italiani ed esteri che trovate in questo periodo. Vediamo un po' di cosa si parla in questi giorni. Cominciamo dalla stampa estera perché ci sono alcune cose magari sempre legate alla crisi, ohimè, che però danno delle letture un po' meno consuete, un po' meno sentite. Ad esempio, su Newsweek Jerry Adler si chiede se gli americani in questa fase di crisi, in questo momento in cui si mette in discussione quanto devono prendere i manager, i grandi dirigenti delle grandi banche, eccetera, insomma in questo momento in cui si ridiscutono tutti i valori anche economici, gli americani possono arrivare ad odiare addirittura i ricchi. La risposta è no, no perché come spiega un sommario che compare nell'articolo su Newsweek, gli americani possono magari arrabbiarsi in qualche caso, ma non riescono ad odiare la ricchezza, preferiscono magari prendere in giro le persone ricche per le loro stravaganze, per le loro eccentricità. E Jerry Adler nel suo articolo spiega anche un po' l'aria che tira in questo momento in America, che è un'aria, sembra decisamente punitiva. Infatti si dice appunto, sentite cari amici ricchi, vi vogliamo dire che questa volta facciamo sul serio, lo stesso presidente è disgustato dalla vostra avidità rapace, e i vostri stessi figli si vergognano a dire che la loro mamma è una banca o una banchiera, e anche le vostre ragazze sono in imbarazzo a dover parlare dei vostri bonus. Così vi toccherà imparare a vivere con soltanto $500,000 all'anno come una persona normale. E poi chiude però facendo una battuta, immaginando appunto questo dialogo, e dice a proposito, bell'orologio, è un Cartier? Quindi, come dire, resta intatta la capacità di fascino delle cose belle, delle cose di lusso, delle cose costose. Jerry Adler nel suo articolo spiega anche perché, nonostante ci sia appunto una messa in discussione dei guadagni molto elevati che possono essere fatti anche in questi tempi di crisi da persone che occupano posti elevati nelle banche o nelle aziende, c'è una sorta di incapacità strutturale da parte della società americana a tramutare tutto questo in una rivolta sociale. Lui individua soprattutto due motivi. L'uno è storico, per così dire, perché i primi colonizzatori americani, ricorda Adler, erano calvinisti e credevano soprattutto alla predestinazione, al destino. Quindi, credendo alla predestinazione, erano soprattutto concentrati sul fatto di poter ottenere dei segni terreni che fossero la manifesta visibilità della benevolenza di Dio nei confronti di queste persone. Insomma, chi ha successo nella vita, questa è un po' una sintesi brutale, se volete, di tutta la filosofia, chi ha successo nella vita in qualche modo è ben voluto anche da Dio e quindi vuol dire che è una persona salvata e non una persona abbandonata da Dio. Un altro motivo storico che Adler individua per questa incapacità di provare comunque dei sentimenti fortemente ostili nei confronti dei ricchi, delle persone ricche, è il fatto che nella società americana, ricorda Adler, manca una aristocrazia terriera basata appunto sul possesso delle terre, cosa che invece è all'origine di molte delle fortune della società europea. Queste due differenze fanno sì che non ci sarà una rivoluzione, questo è poi il titolo dell'articolo di Adler, e quindi che l'atteggiamento pur di sicuramente rabbia, pur di scontento che ci può essere nella società americana non debba necessariamente tradursi in momenti di tensione sociale, e questo in qualche modo può essere anche una bella notizia. Ma di sentimenti particolari in questa fase parla anche Panorama, perché Panorama dedica un articolo di Antonella Piperno all'invidia, quindi anche qui l'invidia spesso per le persone ricche, l'invidia logora solo chi ce l'ha, è il titolo dell'articolo, e si parla del pianista Giovanni Allevi che è stato attaccato da altri musicisti dopo l'invito al Quirinale, della nuova First Lady Michelle Obama sbeffeggiata per il suo look, per come si è vestita appunto nelle prime uscite pubbliche da First Lady, e di Carla Bruni Sarkozy, che viene presa di mira dalle colleghe modelle. E poi ci sono gli altri personaggi abitualmente invidiati, come possono mancare i calciatori. Viene citato ad esempio David Beckham, di lui il direttore generale Bayern Monaco ricorda qui nell'articolo da Piperno, dice: è passato al Milan come si fa a Hollywood, da noi si gioca a calcio, loro fanno un film. Forse Önes è stato un po' frettoloso nel giudizio sul calciatore. E così via, insomma, la Piperno ricostruisce un po' quali sono le persone più in questo momento bersagliate dall'invidia. Ma gli stessi pubblicitari, leggo in questo articolo, pensano di non cavalcare troppo in questo momento il vizio dell'invidia, perché, come dice Michele Mariani, che è il direttore creativo dell'Armando Testa, l'invidia è sempre stata una chiave preziosa per noi che cerchiamo di provocare desiderio ed emulazione. Però adesso, vista la crisi, l'abbiamo accantonata a favore di messaggi pubblicitari più tranquillizzanti. E allora, visto che ci troviamo sui sentimenti che si possono provare in questa fase così particolare che stiamo vivendo, apriamo il numero appena uscito di il mensile del Sole 24 Ore. Questo mese, tra le sue molte storie che potete trovare, c'è questa storia di copertina molto interessante. Oh my God, non volete rassegnarvi alla grande depressione 2009, 24 scelte che cambiano la vita. Numero 1, scelta numero 1, quella di scegliere Dio. Ecco perché questa particolare, curiosa storia di copertina, perché, come ci avverte Paolo Martini su Il, i manager di Wall Street in crisi, sulle orme dei divi di Hollywood, si sono rifugiati nelle chiese. È la prima risorgenza religiosa del terzo millennio o c'è dell'altro? Beh, naturalmente la risposta viene dal lungo e bell'articolo di Paolo Martini, ma vi leggo qualche brano qua e là per dare un'idea delle dimensioni di questa particolare sensibilità religiosa che sta riprendendo. Dice: il caso della piccola chiesa evangelica Shelter Rock a Manhasset, a Long Island, cittadina con la maggiore concentrazione di veri nuovi ricchi della finanza di New York. Qui il pastore capo, Steve Tomlinson, si è trovato a dover allestire in fretta e furia all'inizio dell'inverno una sala per la TV a circuito chiuso con 100 sedie pieghevoli che sono state tutte occupate dai nuovi fedeli della funzione domenicale. La notizia è stata scovata dal New York Times, che per primo ha raccontato con dovizia di particolari il fenomeno della risorgenza religiosa dopo il crollo della borsa e l'esplosione della crisi, e ha titolato con schiettezza l'inchiesta: i tempi duri attraggono grandi folle nelle chiese. Beh, forse si calcolo, forse magari la scoperta di valori diversi, ma è un dato di fatto che c'è questo sentire religioso o risentire religioso che sembra prendere un po' più corpo. E ancora, restando su Il, vi segnalo una bella intervista a Schumacher, a Michael Schumacher, già pilota, lo ricorderete tutti, della Ferrari, pluricampione del mondo con la Ferrari. In questa intervista, in cui il collega Christian Kemmerling ha passato due giornate con Michael Schumacher, si apprendono tra l'altro dei particolari che non so quanto fossero noti al grande pubblico. Ad esempio, che Schumacher ha questa curiosa abitudine di riuscire ad addormentarsi a comando per pochi minuti per potersi ricaricare, e gli chiede: ma come riesci a fare questi brevissimi sonnellini e a risvegliarti subito? Spiega Schumacher: ho iniziato a riuscirci veramente negli ultimi 10 anni circa della mia carriera professionale. I primi tempi ero troppo teso. Sono 2-3 minuti di sonno che mi ridanno tutta l'energia, quindi una specie di sonnellino super concentrato che gli consente di mantenersi in forma, di mantenersi vigile, insomma, perdendo per qualche istante soltanto lo stato di coscienza. E poi ancora, nell'intervista che trovate su Il, mi ricordo da ieri con il Sole 24 Ore, gli chiede: avevi un talismano o sei in qualche modo superstizioso, visto il mestiere, insomma, che hai fatto? Schumacher ammette di essere un pochino superstizioso, e alla domanda del talismano risponde: sì, avevo un amuleto datomi da Corinna è la moglie di Schumacher, ed entravo, questo forse era meno noto, sempre nella macchina dallo stesso lato, da sinistra. Mi ha portato fortuna, ammette Schumacher. Effettivamente ha portato fortuna a lui e anche alle macchine che ha guidato per lungo tempo. Restiamo ancora qualche istante su Illa, il mensile del Sole 24 Ore, perché vi voglio segnalare questo effetto Nollywood. Sapete che dopo Hollywood in California, Bollywood in India, cioè i punti di produzione cinematografica di valore mondiale, ora c'è anche Nollywood. La California d'Africa, spiega Illa sulla sua parte Global Report. Il cinema nigeriano è il terzo al mondo, costi ridotti, diffusione capillare. La chiamano Nollywood, è la terza più grande industria cinematografica del mondo, dopo Hollywood e Bollywood appunto, ed è in Nigeria. Ha solo 16 anni ma già fa scuola. Budget ridotti e pubblico locale per film modesti, immediati, popolarissimi. Spiega Fabrizio Colombo del Festival del Cinema Africano di Verona, si gira tutto in meno di un mese in digitale con 5-10 mila dollari. Poi il regista sa che ha una settimana per rifarsi delle spese prima che la pirateria faccia il resto. Con quello che gli resta lavora al prossimo film. Ecco, in questa Nollywood appunto sono stati prodotti, in questa fast food del cinema, oltre 2000 film all'anno. Magazine 24. Bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica. Stavamo parlando di Il, il mensile del Sole 24 Ore. Una ultimissima segnalazione da Il per una storia che troviamo poi raccontata dall'estero, cioè da Newsweek. Si tratta della vicenda curiosa del divieto di ristoranti non italiani, non locali a Lucca. Non so quanti di voi siano a conoscenza di questo episodio. Dovete sapere che a Lucca, come appunto riferisce Newsweek, è in corso la grande guerra del kebab, così è il titolo ironico di Newsweek, e si spiega che nella città toscana di Lucca, famosa per aver dato i natali a Puccini, pur non essendoci bisogno di ulteriore pubblicità, c'è in corso questo scontro per un'ordinanza che vieta l'apertura di locali etnici. Il problema, riferisce Newsweek, è che c'è un po' di timore che il centro di Lucca venga preso in qualche modo d'assalto, venga invaso da più ristoranti non locali, non italiani, e come riferisce Newsweek già in Pisa ci sono 16 punti per il kebab ad esempio, e questo racconta Harry Gock, che vive a Lucca ma ovviamente con questo nome proviene dalla Mesopotamia. È quello che mette più paura ai lucchesi stessi, cioè il fatto di essere poi invasi da ristoranti etnici di altre etnie e non italiani. Di questa vicenda si occupa anche Salvatore Carruba nella sua rubrica Idee di scorta su Il, e ricorda Carruba che negli anni 50 e 60 ad esempio la ristorazione milanese era in mano agli osti toscani. E le loro trattorie, come ricorda anche Indro Montanelli, erano un elemento costitutivo del panorama urbano. Adesso a Lucca, riferisce Carruba, per decreto comunale si potrà ristorare solo in stile lucchese. Un ucase che minaccia noia mortale al palato e denuncia un tarlo nell'animo, quello di pensare cioè che il nuovo e il diverso siano per ciò stesso una minaccia. Meticciamento è una parola ambigua, pur nella sua correttezza politica, che cela più spesso l'insicurezza su se stessi che non l'accettazione dell'altro. C'è una ricetta più tradizionale, è il consiglio di Carruba per definire la nostra civiltà: pluralismo e tolleranza conditi con un pizzico di buon senso di cui abbondavano i mercanti lucchesi. Una ricetta buona innanzitutto per noi stessi. E allora, visto che siamo sulle ricette, restiamo in qualche modo in un ambito di spesa, perché su Famiglia Cristiana ci raccontano di questo volume che ha già spopolato in Francia, scritto da una cassiera di supermercato. Forse magari con poi i proventi di questo libro non sarà più tenuta a occuparsi della cassa del supermercato. Ma la vicenda è interessante perché da una delle casse dell'ipermercato Leclerc di Rennes, tra un bip di un lettore ottico, per 8 anni Anna Sem, questo è il nome, ha risposto a richieste tipo: dov'è il bagno? Non ha un sacchetto? Questa cassa è aperta? Ripetendo, riferisce appunto l'articolo di Laura Lapietra su Famiglia Cristiana, per circa 250 volte al dì: buongiorno, arrivederci e buona giornata, spesso senza essere ricambiata. Come le sue colleghe, Anna Sam ha passato dai 700 agli 800 articoli sul nastro ogni ora, sollevato circa 800 kg di merce ogni 60 minuti, subito la maleducata indifferenza di alcuni clienti, frustrazioni, episodi piacevoli e destabilizzanti che questa 29enne ex cassiera francese ha trasformato con una buona dose di ironia prima in un blog e poi in un libro, Le tribolazioni di una cassiera, che in Francia è stato un caso editoriale, ha venduto 100.000 copie in 4 mesi ed è prossimo a diventare un film e uno spettacolo teatrale. L'autrice appunto confessa che non aveva assolutamente in mente di scrivere un bestseller, voleva soltanto in qualche modo condividere questa esperienza che porta di questo lavoro particolare che porta tutti a contatto con la gente, un contatto diretto e costante per molte ore. E sempre in materia di supermercati, una cosa interessante, una novità tecnologica che ci viene segnalata dal mondo, il cartellino elettronico. Di cosa si tratta? Si tratta di un'applicazione estesa dell'elettronica ai cartellini segnaprezzo. Non so se avete mai fatto caso, mi è capitato di pensare a quanto lavoro ci deve essere sul fatto di aggiornare scaffale per scaffale, prodotto per prodotto, i prezzi. E come riferisce Il Mondo, l'ufficio senza carta, anche il supermercato vuole liberarsi dalla stampa e dall'inchiostro. L'obiettivo, naturalmente, è ridurre tempi, costi, migliorare l'efficienza. La soluzione è questi bancali di bancali merce digitali che sono connessi senza fili a un computer centrale, il quale gestisce ogni aspetto della visibilità dei prodotti esposti al pubblico. L'idea di base è la sostituzione dei cartellini con il prezzo e la descrizione del prodotto, al posto dei quali si usano display che svolgono la stessa funzione. L'innovazione semplice nella sua concezione si trasforma in un cambiamento radicale nella gestione del supermercato, perché questi display, come appunto racconta Fabrizio Frattini sul Mondo, possono essere utilizzati in modo molto più ricco di quanto non possa fare il semplice cartellino che indica il prezzo. Al di là dei risparmi sul costo della stampa e della gestione delle etichette, spiega Frattini che un supermercato con 100 punti vendita arriva a consumare 5 milioni di fogli di carta in un anno, e al prezzo di acquisto si somma poi quello dell'inchiostro, delle periferiche, la logistica, lo smaltimento dei cartellini. Ecco, invece, utilizzando dei display elettronici, questi possono operare anche come sistemi di pubblicizzazione di prodotti per le promozioni, come cartellonistica interna, possono sostituire i volantini. Inoltre, i supermercati, grazie agli scaffali digitali opportunamente dotati di display di dimensioni un po' più grandi, possono lanciare anche sconti flash controllati centralmente, per esempio in chiusura di giornata per liquidare i prodotti freschi. Quindi il supermercato tradizionale e il tradizionale cartellino in qualche modo vengono integrati da una tecnologia che ci cambierà parecchio la vita, a quanto pare. Allora, cambiamo decisamente argomento, dalla spesa alla casa. Perché? Perché su Famiglia Cristiana si riportano le aspettative del governo sul piano casa, il piano del governo per rispondere alla richiesta di abitazioni. Ve la do io la casa. Prevista la costruzione di 100.000 alloggi entro il 2013, che saranno posti in vendita a condizioni vantaggiose. Lo spiega a Famiglia Cristiana il sottosegretario alla casa Mario Mantovani: costruiremo almeno 20.000 alloggi entro 2 anni. Questo per poter far fronte a quella che Famiglia Cristiana definisce un'emergenza, perché ci sono appunto 4 milioni di famiglie che non vivono in una casa di proprietà e 650.000 domande di alloggi pubblici in tutta Italia. Il peso dell'affitto sul reddito netto delle famiglie a Milano è intorno al 55%, e vista la congiuntura non semplice, c'è da pensare che questa domanda per l'affitto poi finisca per pesare anche maggiormente. A queste indicazioni, a queste anticipazioni che vengono date dal sottosegretario, risponde però polemicamente, sempre su Famiglia Cristiana, il segretario generale del SICET CISL, che dice: è un piano fuori dalla realtà, perché questi alloggi promessi da qui al 2013 basterebbero appena a coprire il fabbisogno della Lombardia e i fondi sono insufficienti. Dice: 100.000 alloggi entro il 2013 sono meno di quelli che servirebbero solo in Lombardia, a detta della regione. Oltre a essere quantitativamente insufficienti, è anche la qualità strategica del piano che secondo noi non va bene. Quindi sull'emergenza casa, una ricetta indicata dal governo, un'indicazione data dal governo, però subito anche presa di mira dai sindacati. Il tempo a nostra disposizione è così scaduto. Io ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma, Fabio Cantadori per la regia, e vi do appuntamento a sabato prossimo.